Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Questa laurea non è solo mia, ma di tutti i contesti che mi hanno sostenuto e di chi li ha prima costruiti e poi convissuti insieme a me. Se fosse una laurea ad honorem, avrei potuto fare un facile gioco di parole, sostenendo che non è una laurea ad personam, ma purtroppo, o per fortuna, si tratta di una laurea honoris causa. Claudio Imprudente terrà ora la sua lezione dottorale. Faccio. Premessa. Sono. Molto. E emozionato. Quindi. Balbetterò. Quella che avete sentito non è la voce di Claudio Imprudente, non è la prima dell'uomo che avete sentito, che in realtà è una voce che appartiene a un docente universitario, e nemmeno la seconda ovviamente, che è quella di una donna che è, credo la definizione corretta sia lettrice, però non ne sono sicuro. Claudio Imprudente non può parlare, non sarà ospite in questa trasmissione con la sua voce, sarà ospite con la sua storia e con le risposte che vi ha mandato via mail. Claudio Imprudente è, secondo una sua stessa definizione, anzi una definizione che lui stesso ha inventato, è un diversamente abile. È una persona che ha problemi nella mobilità, nel parlare, per cui ci racconterà meglio lui come fa a comunicare con le altre persone. Questo non gli ha impedito però di fondare delle associazioni di carattere formativo, non le ha impedito soprattutto di ricevere una laurea honoris causa presso l'Università di Bologna lo scorso 18 maggio del 2011. No, scorso del 18 maggio del 2011 non ha senso, il 18 maggio del 2011, cioè 2 anni fa. È una laurea in formazione e cooperazione. Vi racconto come è avvenuto l'incontro tra me e Claudio via mail. È avvenuto così, attraverso un messaggio, appunto un messaggio di posta elettronica. Voi siete qui, @radio24.it, che diceva: buongiorno, mi chiamo Claudio Imprudente. Nelle varie biografie che ho scritto amo definirmi un formatore, un giornalista e uno scrittore non disabile, ma diversamente abile. Tra l'altro ho coniato io questo termine nel 2003, anno europeo delle persone con disabilità. Non ritengo di aver scoperto l'acqua calda, però, come molto spesso dico, anche una parola migliorerà il nostro biglietto da visita. Per comunicare uso una tavoletta di plexiglass, in cui sono incise le lettere che indico con lo sguardo, e il mio interlocutore, ripetendole ad alta voce, potrà dare vita alla comunicazione. Quella che ti invio è la mia lectio magistralis, tenuta in occasione della laurea honoris causa in formazione e cooperazione, conferitami dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna. Ecco perché c'è stata tutta questa introduzione, perché la puntata di oggi, lunedì 27 maggio del 2013, è una puntata particolare, perché racconta la storia di una persona particolare e perché di fatto non è un vero e proprio racconto, ma è una sorta di introduzione alla laurea che è stata conferita a Claudio. La cosa particolare di questa storia sta nel modo in cui viene raccontata, cioè nel modo particolare che Claudio ha per comunicare, ed è appunto quello di guardare delle lettere su una tavoletta di plexiglass e avere qualcuno dall'altra parte che osserva e coglie nel suo sguardo quale lettera è la lettera che lui vuole utilizzare, mettendole insieme compone delle parole. Se voi avete nella vostra esperienza di vita, nella vostra quotidianità, un modo particolare di comunicare con qualcuno, oggi raccontatecelo. 349-238-6666. Sapete come le mamme che dicono: a me, per far capire una cosa a mio figlio, basta uno sguardo. Ecco, vale quello. 349-238-6666, ma anche il Facebook del programma, che è Voi Siete Qui Radio 24. Ma valgono anche, ne parlavamo con Tiziano, quelle sono le bandierine degli scout, non so come si chiama, hanno un nome, però il linguaggio delle bandierine degli scout, se l'avete imparato e lo utilizzate ancora, è il linguaggio Morse, ok. 349-238-6666, ma ancora il linguaggio, da piccoli si usa il linguaggio, come si chiama, farfallino, quello per cui metti una F davanti a ogni parola, tipo metti una F più la vocale che la segue, pa fa, ro fo, la fa, parola, giusto? Hai visto? La corte, tu mi vedi così e dici questo è scemo. E invece, ed effettivamente è così. Lo diceva sempre Federico Bianco guardandomi in faccia. 349-238-6666. Un modo che avete particolare di comunicare, che è tutto vostro, con qualcuno in particolare, che può essere vostro figlio, vostro cognato, vostro marito, insomma, il vostro personalissimo modo di comunicare, che immagino non sia come quello di Claudio, però quantomeno ha una sua particolarità. 349-238-6666. Ad esempio, ci ha scritto sul profilo Facebook del programma Cristina, che dice: con mia mamma, che è affetta da sclerosi multipla, ci capiamo leggendo il labiale e seguendo il suo sguardo quando vuole indicarci qualcosa o qualcuno che le sta attorno nella stanza in cui vuole trovarsi. Spesso, quando non ci sono più le parole, lo sguardo effettivamente diventa un modo principale per comunicare. Tra l'altro, a questo proposito, più tardi voglio leggervi un pezzo di un romanzo che nella mia scarsa fantasia mi è venuto in mente quando ho letto la storia di Claudio, che è un romanzo del 95. No, del 97, scritto da questo francese che venne colpito dopo un incidente, venne colpito da una forma di paralisi totale. Si chiama Lo scafandro e la farfalla, forse lo conoscete perché avete visto anche un film. E lui dettò questo libro semplicemente chiudendo o aprendo la palpebra di un occhio, che era l'unica cosa che riusciva a fare. Era lo stesso metodo: qualcuno gli faceva scorrere delle lettere e lui batteva la palpebra dell'occhio per segnare la lettera che voleva utilizzare. È un pezzo in cui lui racconta come vede il mondo dalla sua posizione. Oggi però, questo dopo la borsa, oggi però parliamo della storia di Claudio. Immaginatevi di essere il 18 di maggio del 2012 alla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna e Claudio sta per laurearsi. Facciamo un salto indietro di 50 anni. Come sapete, a quel tempo la disabilità era davvero un handicap. Volendo ricorrere ad una formula sintetica, se oggi avere un figlio disabile è considerato una sfiga, al tempo era una vera e propria maledizione personale e familiare. Diciamo che nella scala delle negatività ci siamo allontanati dalle ultime posizioni. C'è una bella differenza tra sfiga e maledizione. Quest'ultima è come caduta dall'alto e non lascia scampo o vie di fuga. Di solito ha derivazione divina o diabolica. La famosa frase del dottore, che dopo avermi visitato all'età di 2 anni ha scosso la testa dicendo: non c'è nulla da fare, sarà un vegetale. Ecco, quella frase è stata lì per lì subita dai miei genitori come si subisce una maledizione. Dal momento in cui si sono sentiti dire quelle parole, hanno dovuto cominciare un percorso solitario e al buio. O meglio, hanno dovuto immaginare un percorso alternativo a quello che le loro aspettative avevano tracciato davanti ai loro occhi fino a quel momento. Come se avessero dovuto utilizzare un TomTom per reimpostare il tragitto. La differenza è che il TomTom in strada ci mette 20-30 secondi a rispondere e a risolvere. Invece nel mio caso ci sono voluti anni per studiare e impostare un percorso diverso. Dapprima riconoscendo che io ero e sono loro figlio, una loro creatura, anzi una bella creatura, e in quanto tale cominciando a darmi fiducia. Fiducia e complicità, come un primo mattone solido per costruire il resto. E a un livello più intimo, darmi la sensazione certa di non essere di peso, di non interferire troppo nella vita dei miei genitori. Ecco, questo ha aumentato anche la stima che provavo nei miei stessi confronti, perché già da piccolo potevo sentirmi come non del tutto dipendente, o almeno potevo avvertire la mia dipendenza come non pienamente vincolante per gli altri e di cui per me stesso. L'humus che ha permesso la mia crescita è per molti aspetti lo stesso che ha favorito la nascita e lo sviluppo del Bosco, Centro Documentazione Handicap, Progetto Calamaio. Ecco, provo allora a definire a cosa i miei genitori si sono e mi hanno educato e a cosa ho e abbiamo cercato di educare attraverso la nostra professione. Sono stati, come si evince già da quanto detto sopra, i miei genitori sono stati educatori alla costruzione di un forte sentimento di autostima. Cosa ben diversa dall'arroganza e dalla prepotenza, eh? Il confine però è labile, per non varcarlo serve educazione. Sì, loro sono stati educatori al rispetto della diversità. Sono stati educatori al riconoscimento dei meccanismi per cui si produce e si impone il pregiudizio. Sono stati educatori a guardare alle cose da un'altra angolazione. Stiamo trattando e ci stiamo avvicinando a concetti fondamentali del nostro vivere insieme. Ne ho scritto altre volte, ma mi preme ribadirlo in questa sede. Si tratta di trovare un modo capace di sviluppare delle condizioni strutturali per coniugare uguaglianza e libertà, uguaglianza e diversità, diversità e opportunità. Bought myself a red balloon, got a blue surprise. Hitting in the red balloon, pinning up my eyes. Took a love light from my eyes, blue, blue surprise. Took a love light from my eyes, blue, blue surprise. C'è poi un altro oggetto che ricordo sempre, soprattutto a quelli che negli anni hanno partecipato in modo momentaneo, temporaneo al nostro lavoro. Ad esempio i ragazzi che prestano servizio civile o quegli studenti che decidono di svolgere il loro tirocinio presso il nostro centro. Ed è: sappiate sporcarvi le mani. Con i nostri educatori ironizzo perché nel lavoro con persone disabili si sperimenta anche il senso non figurato dell'espressione. Ma è importante capire che non si tratta solamente di un modo per agire più concretamente sulla realtà, ma anche e soprattutto di una via privilegiata alla conoscenza. In un certo senso è un momento che precede logicamente tutti gli altri. È l'esperienza e la sporcizia e i segni che ci lasciano le mani a formarci. È l'esperienza che ci fa conoscere e ci mette di fronte alle nostre e altrui paure e ci indica come superarle. È l'esperienza che ci insegna quale forza, quale presa abbia la creatività. Concludo cercando di dare il senso corretto a un termine del quale ho spesso fatto uso, ma al quale va restituita forza, pregnanza, le stesse che l'utilizzo corrente le ha progressivamente tolto. Un termine ed una pratica, in realtà. Perché non può esistere scandalo senza che qualcuno o qualcosa lo produca. Peraltro nel mio caso si è trattato spesso di dare scandalo involontariamente, per il semplice fatto di occupare uno spazio in un dato tempo senza fare altro, semplicemente con la mia presenza. La parola scandalo deriva dal greco skandalon ed etimologicamente significa trappola, inciampo, in senso figurato molestia. Ecco, vorrei che il conferimento di questa laurea funzionasse in questo senso, ovvero come elemento generatore di molestia nei confronti di tutti gli educatori che non credono che un vegetale sia in grado di far procedere i contesti nei quali si trova e che fa vivere e che fa operare. In secondo luogo, nei confronti di coloro che ricoprono incarichi politici e non prestano la dovuta attenzione alla realtà delle abilità diverse. E infine, nei confronti di quei genitori che non riescono, per ragioni più varie e comprensibili, a creare quella complicità che può garantire un'educazione normale ai loro figli. Metodi per comunicare che non siano solo quelli verbali. Stefano, ad esempio, scrive: in laboratorio chi suona God Save the Queen invita l'altro a bere un tè. Questo non si capisce in quale laboratorio siamo, Stefano, e se siamo in Italia o in Inghilterra. Immagino in Gran Bretagna. Immagino in Gran Bretagna, perché se si beve un tè, vabbè, qui vado per luoghi comuni ovviamente, perché parlo di tè, God Save the Queen, e quindi per me siamo in Gran Bretagna. Ciao Matteo, mio fratello Luca, io qualche volta, muovendo il bicchiere sul tavolo, facciamo capire a mia madre che ci deve versare l'acqua. Siamo normali, ma lei è una santa. No, siete voi che siete degli imbecilli, perché se dovete allungare il bicchiere per farvi versare l'acqua da vostra madre, diciamo, lei ha le sue responsabilità, ragazzi, però anche voi magari alzate sta bottiglia e portatela al bicchiere, mi sembra tutto molto più semplice. 349 238 6666. Oggi si parla della storia di Claudio, o meglio, vi ho raccontato un pezzo della storia di Claudio, Claudio imprudente, per chi lo conoscesse, visto che di fatto è una figura pubblica, Claudio studio che mi ha mandato un pezzo della sua Lectio Magistralis, cioè una sorta di discussione della tesi che gli è stata data honoris causa in, non l'ho detto prima, ma formazione e cooperazione all'Università di Bologna. Qualcuno mi chiedeva esattamente che tipo di problema ha Claudio prima via SMS, e abbiamo trovato, perché da qualche parte in giro sulle sue biografie c'era, è affetto dalla nascita da tetraparesi spastica, Claudio, che è una forma di paralisi cerebrale che colpisce entrambi gli arti superiori e inferiori. Siccome so che Claudio in questo momento ci sta ascoltando e mi diceva che sarebbe intervenuto con qualche tweet o con qualche Facebook, se dico qualche vaccata, Claudio, entra pure a gamba tesa, scrivendomi in maniera corretta come stanno le cose. Visto che appunto in questa parte di solito noi prendiamo la telefonata con l'ospite, con l'autore ospite della puntata, io mi sono portato avanti con Claudio, gli ho detto: senti, facciamo così, ti mando una mail con le domande che ti farei dal vivo, e tu mi rispondi via mail e poi le leggo io. Adesso le ho perse di vista, eccole qua, in modo che così semplicemente abbiamo chiacchierato con Claudio in differita e adesso ve lo leggo in diretta. La prima cosa che ho chiesto a Claudio è la cosa che già vi ho spiegato, perché comunque ha un suo fascino, che è come comunichi con le persone, e lui appunto mi risponde attraverso lo sguardo, grazie a una tavoletta in plexiglass in cui ci sono queste lettere, per cui l'interlocutore segue lo sguardo e ripete ad alta voce le lettere che indica con gli occhi. In realtà credo che poi il lettore, credo che si chiami così, a un certo punto va a senso e prova ad indovinare la parola, insomma non gliela fa finire tutta. Qual è stato il momento più difficile della tua formazione umana e qual è stato quello più felice invece? Ho chiesto a Claudio, che mi risponde: la mia realizzazione è stata possibile grazie alla fiducia che c'era intorno alla mia persona, partendo dalla mia famiglia e dai miei amici. Il momento più difficile che ho attraversato è stato dopo la morte di mio padre, verso i 17 anni, quando mi sono chiesto: ma perché proprio a me? Col tempo ho trovato delle piccole risposte. Il momento più bello, neanche a dirlo, è quel 18 maggio 2011 con la laurea che gli è stata attribuita dall'Università di Bologna. Gli ho chiesto quali sono le sue paure più grandi e lui mi ha risposto di essere un peso per gli altri piuttosto che una risorsa. E poi sono andato un po' più nello specifico, cioè che cosa ad una persona diversamente abile, secondo lui, manca invece di una persona che è considerata abile. Qui usiamo termini chiaramente precostituiti. E Claudio mi risponde: alle persone diversamente abili credo che talvolta manchi il senso pratico del quotidiano, ma nello stesso tempo anche la possibilità di vivere tutte le tappe della vita di ognuno. Che cosa ad una persona abile, invece, gli chiedo, manca di una persona diversamente abile? E lui mi risponde: quando partecipa ai convegni o incontro lo scolaresche, di coloro di avere il coraggio di sporcarsi le mani, che è la cosa che già diceva prima, cioè di non temere di entrare in una relazione alla pari con gli altri. Gli ho chiesto qual è il suo luogo di lavoro, lui mi dice: 30 anni fa ho fondato il primo centro documentazione handicap in Italia, che ha sede a Bologna. E poi domande più piccole, più personali, che sono: cosa fai per rilassarti? E Claudio mi dice: mi piace stare sotto i rami di un tiglio che è vicino a casa mia. Dove vai in vacanza? Della sera mi faccio i fatti degli altri, mi dice: mare, montagna e terme. E poi l'ultima domanda è: qual è il tuo obiettivo più grande? E Claudio mi risponde: non parlare più di integrazione, perché c'è. Ed ecco, ho la speranza che un giorno non si parli più di integrazione, perché l'integrazione ci sarà. Io ringrazio ancora Claudio Imprudente per la sua storia, per averci mandato il suo racconto. La puntata continua dopo la borsa. Se avete un modo particolare di comunicare, che non vuol dire per forza guardare le lettere attraverso una tavoletta trasparente di plexiglass, qualsiasi sia il vostro modo, 349-238-6666. Voi siete qui. Andate a vederla la foto sul sito di Radio 24, alla pagina Voi siete qui. Se ci andate adesso, c'è la nostra pagina, dovrebbe essere più facilmente accessibile perché siamo in diretta, quindi vi trovate subito. In diretta Voi siete qui, ci cliccate sopra. Si chiama Lectio Magistralis la puntata, e la foto di Claudio è una foto che dice molto di lui. Non capisco se è una foto con fotomontaggio oppure è proprio fatta attraverso il plexiglass. Sta di fatto che si vedono in primo piano le lettere, queste lettere nere sparse che sono DFHGL, RTO, insomma non sono tutte, sono una parte delle lettere dell'alfabeto perché non stavano tutte nella foto. E dietro a questo plexiglass trasparente con le lettere c'è la faccia di Claudio, che è molto pettinato perché è la foto per la laurea questa, quindi è leccatissimo e soprattutto è molto sorridente. Lectio Magistralis. La locuzione latina lectio magistralis, composizione di lectio, lettura, lezione, più magistralis, del maestro, quindi lettura o lezione del maestro, è utilizzata in ambito universitario, culturale o religioso per indicare la lettura, la conferenza o la lezione tenuta da una personalità che per autorevolezza o comprovata capacità scientifica conferisce particolare rilievo all'evento. Sono il papà di un ragazzo meravigliosamente non udente, mi scrive Luigi. Invece di parlare a un sordo, parlo a un normo udente da quando è nato. E abbiamo vinto insieme a lui. Ciao Luigi, appunto. E poi c'è un messaggio di Francesca. I messaggi in cui si raccontano cose intime delle coppie sono, per chi li scrive, molto teneri. Per chi li ascolta, sono al limite, diciamo. Francesca scrive: io e mio marito usiamo delle parole nostre per definire certe cose. Nascono spontaneamente un giorno e rimangono nel nostro mondo. Per esempio, la parola euro da noi è lemure. Ecco, appunto, queste sono quelle cose che io immagino che Francesca e suo marito, quando se le raccontano, quanto viene? 500 lemure, no? È un po' troppo. Hai fatto il pieno? Quant'è? Ma sono 20 lemure. Sicuramente loro si divertono tantissimo con questo linguaggio. A raccontarlo però Francesca purtroppo fa un effetto un po' diverso. Ma voi continuate ad usarlo, non sto dicendo che non dovete usarlo. Voi inventatevi tutte le paroline che volete. Però secondo me, se ve le tenete tra di voi, è meglio un pochettino per tutti. Prima di andare avanti e leggervi un pezzo del libro di cui vi parlavo prima, che si chiama Lo scafandro e la farfalla, voglio tornare a parlare di una cosa di cui ho accennato settimana scorsa e che si è un attimo interrotta, perché stiamo trovando il modo per farvi iscrivere, come al solito, gratuitamente online. Ma vi ricordo, visto che manca un mese esatto, oggi è il 27 di maggio, tra un mese, giovedì 27 di giugno, cioè un giorno prima della fine della diretta di questo programma, il programma andrà avanti poi a luglio con una sorta di meglio di, cioè metteremo insieme delle puntate che in qualche modo hanno avuto più successo, sono piaciute di più o semplicemente ci sono piaciute di più, e quindi per tutto il mese di luglio saremo qui a tenervi compagnia. Di fatto però la diretta del programma finisce venerdì 28 giugno 2013, la sera prima. Sempre qui dal vivo, dalla sede di Radio 24, nella Sala Collina, credo. Nella Sala Collina è sempre il solito posto, ormai lo conoscete, via Monterosa 91 a Milano, si terrà lo spettacolo finale di questo programma, diciamo lo spettacolo finale della stagione di questo programma, quello che noi chiamiamo semplicemente il live di Voi Siete Qui. Verranno raccontate 10 tra le storie che abbiamo raccontato durante tutta la stagione. Di solito c'è un bel po' di gente, ci sono le persone che hanno scritto, ci sono quelli che non hanno scritto, ci sono quelli che hanno scritto ma non sono stati letti, ci sono quelli che hanno scritto e sono stati letti, magari sono stati anche scelti per le 10 storie da raccontare. C'è uno che legge, che sono io. La serata viene via con poco, con un'ora e 10, un'ora e un quarto abbiamo finito. Soprattutto è gratuita, di solito c'è il sole quando... sembra piovuto mai? No, di solito è una bella serata d'inizio estate. Se avete voglia, adesso già siamo tirati, verrà giù il diluvio. Se avete voglia di passare una serata in compagnia mia, di Tiziano Bonini, di Margherita Ina e anche di Pietro Lacorte, possiamo dirlo ufficialmente, e di tutti quelli che fanno questa radio e che hanno voglia di passare quella sera, ci vediamo giovedì 27 giugno 2013 attorno alle 21, diciamo 21, qui nella sede di Radio 24. A partire da venerdì, cioè tra 5 giorni, sarà online disponibile un form, cioè una pagina da compilare con i vostri dati. La compilate, dite quanti siete, chi siete, eccetera eccetera, vi ritornerà una mail che vi dirà: perfetto, sei prenotato e puoi venire. Non arriverà nessuna mail, ma... Possibile che... No, non serve la mail. Possibile che non dica una giusta. Quando avete compilato il vostro bel form, lo spedite e siete automaticamente iscritti, ok? E ci si vede la sera del 27. Insomma, manca un mese, avremo modo di spiegarvelo meglio. Comunque segnatevi sull'agenda questa data, 27 di giugno del 2013. Andiamo avanti con il racconto di questa puntata, visto che abbiamo letto la storia di Claudio Imprudente, che racconta che cos'è la sua disabilità, come è arrivato a conviverci e come praticamente l'ha sorpassata alla destra, e ce la racconta proprio in occasione della sua laurea honoris causa. Voglio leggervi invece un pezzo di un libro che si chiama Lo scafandro e la farfalla, in cui questo giornalista francese racconta come, dopo un incidente in cui rimane paralizzato, comunica ma soprattutto vede il mondo. Mi allontano lentamente ma con sicurezza. Come il marinaio durante una traversata vede sparire la costa da cui è partito, io sento il passato che sfuma. La mia vecchia vita brucia ancora in me, ma si riduce sempre più alle ceneri del ricordo. Da quando risiedo a bordo del mio scafandro, ho comunque fatto due viaggi lampo a Parigi, in ambiente ospedaliero, per raccogliere le opinioni dei guru del mondo medico. La prima volta l'emozione mi ha sommerso quando per caso l'ambulanza è passata davanti al palazzo ultramoderno dove esercitavo fino a poco tempo fa il colpevole mestiere di caporedattore per un famoso settimanale femminile. Ho subito riconosciuto il palazzo vicino, un'antichità degli anni 50 di cui un cartello annunciava la distruzione. Poi la nostra facciata tutta a specchio, dove si riflettevano le nuvole e gli aerei. Sul marciapiede c'erano alcune delle figure familiari che si incontrano tutti i giorni per 10 anni, senza poter dar loro un nome. Mi sono slogato la testa per vedere se un viso più conosciuto passava di là, dietro la signora con la crocchia o il pezzo d'uomo con la giacca grigia. Ma il destino non ha voluto così. Forse qualcuno ha visto passare la mia carrozza dagli uffici del quinto piano. Ho versato qualche lacrima davanti al bar tabacchi dove andavo ogni tanto a prendere il piatto del giorno. Posso piangere molto discretamente. Dicono solo che mi cola un occhio. La seconda volta che sono andato a Parigi, 4 mesi più tardi, ero diventato quasi indifferente. L'attraversamento di Parigi non mi ha fatto né caldo né freddo, eppure non mancava niente. Le massaie in abito a fiori e gli adolescenti sugli skateboard. Il borbottio degli autobus. Le bestemmie dei fattorini in motorino, la piazza dell'Opera, gli alberi all'assalto delle facciate e un po' di cotone nel cielo blu. Non mancava niente, eccetto me. Ero altrove. Can you hear me now? Lying in this bed, embedded in this written story. Ecco, ringrazio chiunque sia che ha chiarificato una cosa sulla quale noi avevamo un dubbio. Conviene lanciare un evento se ancora non c'è la possibilità di iscriversi. C'erano delle opinioni contrastanti. E qualcuno diceva, ma guarda, fino a che non puoi iscriverti, no, lascia stare, aspetta. Qualcun altro diceva, ma sì, tu cominci a dirlo. Tanto basta dire che poi da venerdì ci si può iscrivere. Giustamente qualcuno mi scrive, ma dov'è il format? In realtà è un form. Ma dov'è il form da compilare? Sul sito della 24 non c'è. Dov'è? Non c'è. E non c'è perché c'è da venerdì. Però probabilmente ne hai sentito un pezzo, c'hai ragione tu. Da venerdì c'è questa pagina in cui compili e vi iscrivete. Lo ripeteremo alla nausea da qui al 24 di giugno. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata al 27 di giugno. Tutti quelli che hanno reso possibile la puntata, che sono Pietro Lacorte, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Ringrazio soprattutto Claudio Imprudente. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Salve, sono Bruno Servadei, vivo a Roma, la storia di domani è la mia e parla di velivoli da combattimento. Questa è la mia storia e io sono qui.